Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è quello della bella lamanderino, della lavandaia, quello del corridore, poi c'è quello del saltatore. In questi giorni su Twitter c'è quello della cantante Emma, che le sue ginocchia le ha fotografate e mandate in rete, potete vederle, sembrano un po' provate. Ma attenzione care amiche, cari amici, l'elenco continua, perché a lamentarsi non sono solo le ginocchia degli sportivi o dei personaggi famosi, ma anche quelle di chi fa lunghe maratone seduto alla scrivania. Il ginocchio da ufficio, forse il vostro? 800 24 00 24. Come vedete ce n'è per tutti i gusti, per tutte le passioni e le professioni. Chiamateci, potete anche seguirci su Facebook e su Twitter. In studio con me oggi il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Si piegano e si flettono, fanno questi due movimenti, non tanti di più, solo due, eppure ci permettono di fare un sacco di cose. Anche di un tempo vi dichiaravate in ginocchio, adesso non lo fate più, vabbè, pazienza. Ma dicevo che le ginocchia fanno tanto per noi, ma alla fine spesso presentano il conto e si lamentano. Allora, piccolo aneddoto mi è venuto in mente adesso. Io l'ho fatto con mia moglie, mi sono messo in ginocchio in un ristorante. Veramente? E lei era imbarazzatissima. Vabbè, che a bello. Parte questo, certamente io quando parlo di ginocchia ricordo sempre che è un'articolazione complessissima. È vero che fa apparentemente solo due movimenti, però fa anche dei piccoli movimenti di rotazione e è fatta in maniera tale che teoricamente non potrebbe stare insieme. È tenuta insieme dai legamenti, dai menischi e da tutta una serie di formazioni articolari che consentono a questa articolazione di lavorare e di essere stabile. Però è chiaro che più complessa è l'articolazione e maggiori sono i rischi di avere tutta una serie di problemi, specialmente quelli a cui si faceva riferimento. Qualsiasi attività può creare delle problematiche, e queste problematiche sono tanto più importanti quanto qualche volta le nostre ginocchia non nascono bene. Quindi nel tempo una piccola alterazione può anche comportare delle problematiche. Sicuro di essere nel gruppo giusto? 10 minuti al miglio, no? C'ero anche la settimana scorsa. Sì, ma il fatto è che non c'è mai stato uno carino nel gruppo. Tutti quelli carini sono nel gruppo dei 7 minuti. Quindi sono il più carino dei lenti, è questo che stai dicendo? Tu hai già corso la maratona? Gli ultimi 4 anni. Wow! Tu invece? È la prima volta. Pronto? Ho il collo bloccato. Ha chiamato Charlotte mentre mi stavo asciugando i capelli. Tutto il mio corpo ha risentito della lunga maratona. Mi dispiace. Come posso aiutarti? Non lo so. Mi fa male persino reggere il telefono. Sbrigati a venire. Senti, ho... Grazie! Professor D'Anchise, a proposito di corsa, di ginocchio del corridore, domenica scorsa c'è stata la maratona di Firenze, il piacere di partecipare è grande, ma spesso il day after può essere molto doloroso. La corsa infatti è uno stress per le ginocchia. E abbiamo toccato un tasto dolentissimo, nel senso che certamente la corsa è tra le attività sportive più impegnative, per non dire più pericolose per le ginocchia, perché dovete considerare che nel momento in cui noi facciamo, quando noi corriamo, oltre al carico che abbiamo abitualmente, c'è anche il carico dovuto al piccolo saltino che noi facciamo. E la maratona sta diventando di gran moda, ci sono milioni di persone che corrono la maratona. Attenzione però che senza un corretto allenamento, e qualche volta anche con il corretto allenamento, esiste il rischio di un'usura della cartilagine, perché la maratona non è solo quel giorno in cui noi facciamo i 20 o i 40 chilometri, se è mezza o se è completa, ma è la preparazione, e la preparazione comporta quotidianamente o quasi una serie di percorsi per poter arrivare in forma. Quindi è uno stress veramente importante. La percentuale di maratoneti che purtroppo vengono da noi con un problema alla cartilagine, specialmente tra la rotula e il ginocchio, perché l'articolazione del ginocchio potremmo dividerla in due, quella che noi vediamo abitualmente che fa flettere ed estendere tra la parte finale del femore e la parte superiore della tibia, e quell'osso davanti che si chiama rotula, che sembra inutile ma è fondamentale, e per quell'articolazione la sollecitazione della corsa è molto importante. Professor D'Anchise, a volte si avverte dolore, chi corre può avvertire dolore, anche chi cammina, parliamo delle persone che fanno attività fisica regolarmente per mantenersi in forma e delle persone che praticano attività fisica per poi, ad esempio, partecipare ad una maratona. Ci sono dei segnali che le ginocchia mandano e che spesso, proprio perché siamo appassionati, vogliamo allenarci, tendiamo a trascurare. Uno di questi, ad esempio, è il dolore. Cambia in relazione se viene durante l'allenamento o subito dopo? Allora, il sintomo dolore, io dico sempre, è un elemento importantissimo. Se il ginocchio fa male, c'è qualcosa che non funziona e dobbiamo cercare di evitare tutto quello che ci crea dolore. Quindi se noi facciamo un allenamento e dopo un quarto d'ora, 20 minuti cominciamo a sentire dolore, vuol dire innanzitutto che forse abbiamo esagerato e quindi dobbiamo ridurre, e se abbiamo male dopo 20 minuti facciamo 15, insomma, e cerchiamo di non arrivare al punto dolore. E l'altro elemento che fa un po' riferimento a quello che dicevo io all'inizio, vale la pena di fare qualche accertamento, perché è possibile che ci siano delle piccole alterazioni, diciamo, congenite, che possono creare delle difficoltà e che qualche volta ci possono anche portare a dire che purtroppo quell'attività che stiamo facendo, quella specifica attività, possa non essere giusta per il nostro ginocchio. E lì si cambia, potrebbe essere una buona opportunità per provare qualcosa di nuovo. Ma in linea con noi è tornato a trovarci Tite Togni. Ciao Tite. Namaskar a tutti. Tite, abbiamo bisogno, ricordo che Tite è insegnante di yoga certificata Iyengar, ma abbiamo bisogno che tu suggerisca qualche esercizio per restituire benessere alle ginocchia dolenti dei corridori, maratoneti e non. Sì. Lo io. Sì. C'è una posizione che più di tutte aiuta le ginocchia, appunto, soprattutto se sollecitate dalla corsa, dalla camminata, dall'attività. Il concetto è sempre quello: creare, continuare a ricreare, in caso ce ne fosse mancato, spazio all'interno delle articolazioni. Facendo cosa? Utilizzando quello che abbiamo, cioè i nostri muscoli, per distanziare le ossa fra di loro. E infatti l'articolazione è questo: l'articolazione subisce, e forse il dottore può darmi ragione in questo, non può far altro che subire ciò che le ossa e i muscoli fanno sopra e sotto. Quindi, Tite, quindi, per i nostri amici che ci stanno ascoltando? Pensa che si chiama Virasana, cioè la posizione dell'eroe, ma ancora di più in realtà si chiama posizione del campione, quindi i maratoneti possono, se consiste semplicemente in stare inginocchiati e seduti all'inizio su un supporto che può essere addirittura quasi anche una panchetta. Poi può diventare un tre libri, poi due libri, poi un libro. E questi stanno sotto le natiche, in modo che i piedi stiano separati a lato del supporto. Sì. Un bel giorno riuscirò a stare seduta completamente per terra. Lentamente, gradualità. Quindi è un esercizio anche per fare una sorta di stretching, che è molto importante, perché la muscolatura delle gambe tiene il ginocchio e garantisce al ginocchio una stabilità, un equilibrio e quindi salute. Professore. Certo, ricordiamo anche che è fondamentale, quando noi facciamo un'attività fisica, un rinforzo muscolare, di fare sempre degli esercizi di allungamento dei muscoli che noi abbiamo rinforzato. Questo è un elemento fondamentale per ridurre il rischio di avere problematiche. E altro elemento importante, la scelta dell'attività muscolare deve essere, dell'attività fisica, deve essere comunque associata ad un rinforzo muscolare globale. quello che dicevo prima, qualche volta noi abbiamo un cattivo posizionamento della rotola che può essere bilanciato semplicemente con una buona ripresa del tono muscolare specifico, in maniera tale che la rotola, potremmo definirla un po' come se avesse delle redini da una parte e dall'altra, come la testa di un cavallo, devono essere bilanciati. A quel punto il cavallo va dritto. Naturalmente, Tite, tu hai dato dei suggerimenti per i maratoneti che tu segui, quindi hai particolarmente a cuore, ma noi oggi vogliamo parlare anche del ginocchio di chi fa maratone da seduta, il ginocchio da ufficio, di persone che sono molto sedentarie e che comunque avvertono una sintomatologia che può sembrare simile a quella dello sportivo. Tite, aspettiamo i tuoi esercizi sulla pagina di Essere Benessere. Ce li mandi? Grazie, sì, senz'altro, sarà un onore. Grazie Tite, un abbraccio. Loredana, Namaste. Buongiorno, da Genova ci chiama, e poi Francesco dalla provincia di Padova. Voilà. Loredana, benvenuta. Sì. Buongiorno, oggi è proprio la giornata giusta per parlare del mio problema. Allora, io ho un problemino a un ginocchio nella parte interna. Premetto che in questo momento sono seduta nella posizione dell'eroe e il ginocchio non mi fa male. Domenica ho camminato 3 ore e mezza sotto l'acqua, perché sono una camminatrice folle. L'indomani stavo bene, ho fatto ginnastica, ma se io vado a ballare anche solo 2 ore, l'indomani ho male al ginocchio. Porta le scarpe con male. Il tacco quando va a ballare, Loredana? Basse. Tacco basso, professor D'Anchise. Allora, io sai che spingo sempre per il ballo. Dico sempre ballate, e invece Loredana Attenzione che il ballo è diverso dalla camminata. Adesso non dico che si possa confrontare con la maratona, però il ballo richiede il saltellino, la sollecitazione superiore rispetto alla camminata. La prima domanda da fare però è, le sue gambe, tanto non la conosciamo, sono dritte o sono un po' storte? Perché questo... È un po' scostumato questo professor D'Anchise. Qualcosa bisogna però lui le gambe, si è trovato un lavoro per cui può guardare le gambe delle signore. E certo, scelgo solo quelle con le gambe dritte. Visito solo quelle. Quindi, allora, diciamo che l'ipotesi più ragionevole è che ci sia un po' di sollecitazione nella parte interna, e forse anche qui subentra un altro discorso ancora, un menisco magari non perfetto, non rotto, ma magari con una consistenza meno brillante, che nelle sollecitazioni può creare dolore. Io credo che se la sintomatologia è modesta, come ha raccontato lei, le deve far finta di niente e continuare a ballare. Loredana, buon ballo allora. Andiamo grazie comunque, molto gentile. Grazie. E Loredana ci dà uno spunto che può essere utile al professor D'Anchise per darci dei suggerimenti. Sentite il vostro ginocchio, raccontateci se ci sono dei movimenti, delle situazioni che lo rendono un pochino più nervosetto, lo fanno lamentare di più, perché questo può fare la differenza, professore. Certo, come all'inizio dicevamo che si piega e si estende, non è proprio così. Se noi ci pensiamo, molte volte facciamo dei piccoli movimenti di rotazione, o all'interno o all'esterno. Se uno ha male nei movimenti di rotazione, un campanello d'allarme nei confronti di un problema meniscale potrebbe anche esserci. E noi andiamo subito a Francesco, che ci chiama dalla provincia di Padova. Buongiorno. Buongiorno signora Nicoletta, complimenti per la trasmissione. Grazie Francesco, complimenti a lei che ci segue. Ecco, vi seguo tutte le mattine immancabilmente. Allora, volevo sapere questo dal professore. Io ho 50 anni, per il momento diciamo non vado a correre. Volevo cominciare a correre. Correre diciamo con in punta di piedi può essere un sollievo per il ginocchio, può dare meno pressione al ginocchio, oppure la cosa è uguale in tutti i casi? Secondo me è uguale, e correre proprio solo in punta di piedi può essere una sollecitazione eccessiva poi per tutta la muscolatura posteriore, quindi la corsa deve avere il suo passo molto preciso, che vada insomma il passo che facciamo abitualmente quando corriamo, perché questo consente la messa in funzione di tutta la muscolatura. Nell'estate, mi sembra del 72, certe donne hanno cominciato a portare gli zoccoli olandesi, quelli bianchi. Erano stati in Olanda? Non lo so. Però un paio d'anni dopo già non c'erano altro che imitazioni. Il tacco più alto, delle orribili borchie di metallo, e invece erano belli quelli neri, semplici, un po' consumati. Li portavano ragazze con capelli lunghi e biondi sciolti sul pullover, pantaloni blu a tubo e calzettoni rossi. scarpe. Cosa c'entrano le scarpe con le ginocchia? C'entrano in parte, sappiamo che un appoggio corretto è fondamentale per la salute del ginocchio, è un'indicazione che noi dovremmo tenere presente al momento di acquistare un paio di scarpe. In linea con noi abbiamo il dottor Stefano Respizzi, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Respizzi, venga a scegliere le scarpe con noi allora. Ma certo, volentieri, anche perché piede, caviglia, ginocchio, quindi tutto l'arto inferiore vanno di pari passo. Naturalmente se ci appoggiamo bene per terra, se abbiamo i piedi ben piantati in terra, e non a caso ci sono queste battute, anche questi modi di dire, tutto funziona meglio. Perché tutti la trasmissione del carico dal terreno fino ovviamente all'anca, addirittura fino alla cervicale, origina dal nostro corretto appoggio al terreno. Dobbiamo ricordarci che i piedi sono un contatto con il terreno esterno e che ci mandano molti messaggi, quindi se non appoggio bene il piede, la caviglia non è corretta come postura, lo stesso ginocchio, lo stesso l'anca e fino a risalire appunto fino addirittura alla cervicale. Quindi bisogna scegliere molto bene le scarpe. Dottor Respizzi, sono di moda, chi le indossa sembra essere particolarmente soddisfatto, sono le scarpe basculanti con la suola curva, gondola, lei le conosce sicuramente, anche il professor D'Anchisa immagino, certo. Volevo raccogliere un vostro parere al riguardo, dottor Respizzi. Ma io vedo che vengono molto utilizzate, ho cercato di capire cosa ci sta dietro, di fatto queste scarpe rendono instabile il cammino perché costringono a un continuo adattamento, avendo sotto una parte appunto basculante, un continuo adattamento dell'organismo a una condizione di instabilità, quindi sono molto stimolanti, quello che noi chiamiamo il sistema propriocettivo, cioè la nostra capacità di gestire il nostro corpo nello spazio. Per la verità però non ho trovato nulla di scientifico che confermi l'utilità e la validità di queste scarpe dal punto di vista scientifico. Il fatto che siano molto di moda naturalmente vuol dire che evidentemente qualcuno si trova bene con queste scarpe, certo. Però io non ho letto nulla di definitivo, non so se Roberto ne approfitto per salutare. Confermo esattamente quello che dice il dottor Respizzi, che saluto. Ciao. Non credo che abbiano una reale utilità se non quella, infatti volevo fare la stessa osservazione che ha fatto il dottor Respizzi, di questo percorso diciamo così propriocettivo. Che cosa vuol dire? Vuol sì. dire che noi insieme situazioni di relativa instabilità controllata, perché noi la controlliamo nel momento in cui facciamo il passo, sviluppiamo tutta una serie di gruppi muscolari che ci abituano a dare maggiore stabilità all'articolazione, sì. perché è vero che l'articolazione è fatta di legamenti, però la muscolatura è fondamentale per quanto riguarda la stabilità dell'articolazione. Per esempio noi quando facciamo la ricostruzione dei legamenti facciamo dopo l'intervento una ginnastica propriocettiva che stimola questi muscoli e dà un supporto al nuovo legamento che abbiamo ricostruito. Dottor Respizzi, quindi abbiamo parlato delle scarpe a gondola, molti degli ascoltatori mi stanno scrivendo confermando che si trovano benissimo, ma a gondola o normali, l'importante è capire se le scarpe che indossiamo ci assicurano un corretto appoggio che si riflette poi sul benessere del ginocchio. Lei ci può dare qualche indicazione? Possiamo farci proprio guidare dall'esperienza dei nostri piedi, delle nostre scarpe, alias delle nostre suole? Certo, le scarpe appunto noi le utilizziamo per separare il nostro piede dal terreno che è spesso impervio e pericoloso. Una cosa interessante per un cittadino è quello di guardare la suola delle scarpe, perché questo è un indice molto interessante per noi medici di come è la postura dell'arto inferiore. Esempio, se una persona consuma molto il lato esterno della suola e del tacco, probabilmente questa persona ha una tendenza ad avere il calcagno varo e quindi avere anche un ginocchio varo, una tibia vara e un ginocchio varo, quindi un po' piegato verso l'interno. Esattamente l'opposto, se si consuma molto la parte interna della suola e della scarpa, cioè quella verso l'altro piede sostanzialmente, è probabile che questa persona abbia un calcagno valgo e quindi anche un ginocchio valgo. Quindi il consumo, l'usura, esattamente come accade in un'automobile in cui si dice ma hai tutta la gomma consumata sul lato esterno piuttosto che interno, ha proprio questa logica, quella di dirci quali sono le zone di sovraccarico dove si è più consumato e più sovraccaricata l'articolazione. E questo appunto, come dicevo prima, si riverbera anche sopra sul ginocchio, naturalmente. Allora, il dottor Respizzi ci ha dato questo ulteriore suggerimento: guardate la vostra suola, chiamateci e ascoltate il vostro ginocchio. Dottor Respizzi, grazie, buona giornata, alla prossima. Buongiorno. Alza il ditino per intervenire prima dei mercati, il professor D'Anchise. In sostanza volevo dire questo, che se noi abbiamo un ginocchio fatto male, può influenzare il piede, ma in un ginocchio fatto normalmente, senza anomalie, il piede, il cattivo appoggio del piede, perché il piede è fatto male, può far male al ginocchio. Quindi attenzione, se noi abbiamo male al ginocchio, elemento fondamentale, ricordiamoci che esiste l'anca che può dare un dolore al ginocchio. Alle volte noi abbiamo male al ginocchio per un'artrosi dell'anca, quindi guardiamo che tipo di dolore è, e viceversa, guardiamo come appoggiamo il nostro piede, perché qualche volta il ginocchio non c'entra per niente. Penso che possiamo paragonare il ginocchio all'ombelico della gamba, perché alla fine tutto gira intorno a lui o si riverbera su di lui. Che dice, professore? Mi sembra una buona idea. Eccoci qua, mi dicono su Facebook, professor D'Anchise, che lei è un ottimo ballerino. Oh madonna mia, l'abbiamo scoperta, è vero? Insomma, me la cavo. Allora dopo, alla fine, io mi fa fare un giretto con in ginocchio. Questa è la musica te, giusta. È la musica giusta. Ma è tempo di parlare delle nostre ginocchia, da corridore, da saltatore, da ufficio. Andiamo nella provincia di Varese, c'è Cinzia che ci aspetta all'800 24 0024. Buongiorno Cinzia, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, un piacere parlare con lei. Grazie. Niente, io ho questo problema, adoro camminare in montagna, il problema è che in salita va tutto ok, invece in discesa le mie ginocchia, uno in particolar modo, mi dà parecchi problemi. So che, premetto che ho fatto già una risonanza già anni fa, io ho 49 anni, ho fatto già una risonanza anni fa, perché purtroppo in famiglia tutti soffrono di cartilagine, eccetera, so di avere già artrosi e cose del genere, però ecco, grossi, io sono un tipo abbastanza sportivo, problemi non ne ho, se non quando appunto faccio cammina in discesa, montagna, e per chi ama la montagna Noi in discesa andiamo contro gravità, e quindi il lavoro delle nostre ginocchia, in particolare della rotula, è molto importante. Quindi l'unico suggerimento che posso darle, se non vuol cambiare attività, è quella di utilizzare, magari lo fa già, dei bastoncini per ridurre il carico nel momento, quindi scaricare un po' sulle braccia parte del peso. Però è tipico anche di chi non ha una patologia specifica, la sollecitazione in discesa può creare dei dolori per una sollecitazione eccessiva della cartilagine della rotula. Quindi a parte il bastoncino, poi se non si ha una patologia di base, perché la signora si ha già un'artrosi, purtroppo quella è difficile modificare. Il suggerimento è quello che dicevo prima: rinforzare bene la muscolatura del quadricipite prima di cominciare a fare l'attività fisica. Tante volte noi non abbiamo fatto attività, questo è un altro elemento importante, e improvvisamente o d'estate o d'inverno decidiamo di fare 4 ore di passeggiata in montagna, e questo la paghiamo perché la muscolatura non è sufficientemente allenata. Cinzia, buona passeggiata allora, grazie per averci chiamato. A voi, salve. Buona giornata. Andiamo ad Alessandro, che ci chiama dalla provincia di Lecco. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Buongiorno. Ascolti, 3 anni fa, sì? Io così di punto in bianco ho sentito un dolore acutissimo al ginocchio. Sono andato dalla mia dottoressa, che mi aveva operato anche all'anca, e mi ha detto: tu c'hai un legamento del crociato rotto. Così dalla sera alla mattina mi sono trovato un legamento del crociato rotto. Mi ha detto: non è una cosa molto molto vecchia, perché mi ha siringato il ginocchio e è uscito un siero che per lei non era sangue. E per lei invece che cos'era? No, per me non lo so io. No, perché ho visto che per lei non era sangue, ma era un siero giallognolo. Questo è il sintomo che la rottura non è venuta adesso, ma è venuta anni fa. Vabbè, morale. Mi ha detto: se tu non fai attività fisica agonistica, stai così, che vedrai che vabbè, tanto non fa niente. Se invece... ma adesso ce n'ho 60, ma quando avrò 80 anni che magari l'attività fisica che faccio sarà meno, cosa mi succede? Allora, prima di tutto non faccia niente, assolutamente niente, se non ha altri sintomi. Quindi lei ha 60 anni, io credo che vivrà la sua vita tranquillamente senza nessun problema. L'unica osservazione da fare è che è difficilissimo che un crociato si rompa senza anche un trauma, anche se minimo. E se lei analizza magari nella sua storia, nel suo passato, forse c'è stato un trauma che potrebbe aver creato la rottura, perché probabilmente si parla del crociato anteriore. Il crociato anteriore si può rompere anche per motivi banali e può non dare mai nessun disturbo fino a un certo punto. Altra osservazione: se non ha cedimenti ma solo dolore, forse il crociato non c'entra. I cedimenti e gli scricchiolii, che cosa ci raccontano? Allora, gli scricchiolii bisogna far finta di niente. Se non fanno male, bisogna mettersi dei tappi nelle orecchie e far finta che non esistono. Mentre il cedimento può essere legato o a un problema meniscale, cioè di un menisco che si è rotto e improvvisamente può creare un pseudo blocco dell'articolazione, o a un crociato, e il crociato dà dei cedimenti nei cambi di direzione o nei salti, oppure ad una rotula instabile che tende a spostarsi dalla sua sede. Abbiamo sintetizzato. Professore D'Anchise, dai messaggi dei nostri ascoltatori, anche dalle chiamate, ci stiamo accorgendo che ci sono ginocchia che ne hanno viste tante, legamenti strappati, poi ci sono i tendini infiammati, i menischi rotti, sostituiti, ricuciti. Quando il ginocchio ha un problema, sia della cartilagine per il legamento o del legamento, o ha subito un'operazione, lo sport gli fa bene o rischia in qualche modo di peggiorare la situazione? Sento molte persone che, appassionate di uno sport, hanno dovuto rinunciare proprio per problemi alle ginocchia. Sento altri invece purtroppo il discorso, ecco, è un po' tanto generico, nel senso che è difficile dare una risposta in questo senso. Se uno fa un intervento e questo intervento va bene e risolve il problema, si può riprendere a fare esattamente quello che facevamo prima. Qualche volta purtroppo capita che l'intervento venga fatto molto in là, quando già l'articolazione ha subito dei danni irreversibili, quindi usura cartilagine, artrosi vuol dire che si è consumata la cartilagine. A quel punto l'intervento è sempre utile perché rallenta l'evoluzione artrosica, però è chiaro che si rischia di dover ridurre le attività fisiche. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Comincia a muoverti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Oh yeah. Ginocchia malandate, muovetevi anche voi con i consigli di Simone Diamantini, preparatore atletico della squadra nazionale di sci di fondo e allenatore di triathlon. Simone, ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti. Simone, grazie. Iniziamo a dare qualche indicazione, ad esempio occupiamoci di chi va in palestra, quali sono gli esercizi da evitare, quali invece su quelli su cui puntare per chi ha un problema al ginocchio? Beh, come diceva anche il dottore, innanzitutto è necessario di evitare tutti quegli esercizi che danno dolore anche solo ad eseguirli, anche perché comunque stiamo parlando di qualcosa di generico. Sicuramente quello da evitare per chi ha patologie legate al ginocchio sono tutti i gesti con angoli molto chiusi, molto acuti, quindi stare accosciati oppure stare anche con le gambe in iperestensione. Quindi eventualmente da evitare gli squat piuttosto che i piegamenti o quei gesti che sono estremi. Quello invece da favorire possono essere tutte le attività che possono aiutare la ricerca del tono muscolare nella gamba offesa o comunque dolorante, perché spesso il nostro cervello tende a resettare quella gamba e a spostare il carico su quella sana, sull'altra. Quindi poi spesso si può creare una situazione di squilibrio e di scarso tono, spesso a volte nelle patologie non serie è quello che poi crea nel tempo il problema, perché poi dopo con poco tono muscolare, certo, il ginocchio ne subisce le conseguenze. Possiamo recuperare un po' di tono andando in piscina. L'acqua ci toglie il carico della gravità, però in ogni caso Simone, per muoversi richiede sempre un impegno muscolare e quindi articolare. Ci sono dei movimenti o degli stili più indicati per chi allora è appassionato alla piscina? Certo, in acqua abbiamo, come hai detto tu, il fatto di alleggerirsi a seconda dell'altezza dell'acqua, di avere un carico variabile, quindi se ce l'abbiamo al collo possiamo fare movimenti anche totali, anche se magari fuori dall'acqua abbiamo una scarsa mobilità provocata dal dolore, dall'infiammazione. Se l'acqua magari è al ginocchio possiamo camminare, correre, anche altri gesti che magari fuori facciamo fatica. In acqua gli stili che si possono fare sono quelli più semplici, quindi lo stile libero se sappiamo farlo decentemente, il dorso oppure anche solo usare le gambe in modo però solo esclusivamente tipo dorso, tipo stile libero, non assolutamente a rana, perché comunque abbiamo un gesto che comunque richiama movimenti dove vengono coinvolti impiegate proprio le ginocchia, certo. Senti, anche le pinne sarebbe ovviamente il top a volte in alcune piscine mi viene in mente Crozza, il top. Senti, l'uso quindi delle pinne però non sempre permesso nelle piscine, certo. Molti ripiegano sulla bicicletta. Simone, prendiamo la bici. Perfetto, allora andare in bici è comunque forse l'attività più indicata per chi ha problemi alle articolazioni, a patto che ovviamente ci sappia andare, nel senso che è necessaria regolare l'altezza della sella in modo abbastanza adeguato alla nostra altezza cavallo. Si può fare o con dei tecnici o con dei meccanici specializzati oppure in modo abbastanza self-made attraverso una semplice regola. Ci mettiamo con un piede sul marciapiede seduti in bicicletta e cerchiamo di vedere il nostro tallone della gamba opposta, quella non appoggiata al marciapiede, se arriva sul punto più basso del pedale, quindi il punto in cui è più vicino al terreno il pedale. Se la gamba in quel caso è naturalmente distesa, allora vuol dire che l'altezza, quando faremo tutta la rivoluzione della pedalata, è corretta, in modo tale che il ginocchio e l'articolazione, quindi maggiormente interessata, non verrà compressa nel movimento, soprattutto certo, quando il pedale torna su, e soprattutto non avremo anche magari nel caso invece di iperestensione della gamba una situazione a onda del bacino che si muove a destra e a sinistra quando spesso la sella è troppo alta. Quindi cercate il punto morto, possiamo dire. L'unica cosa da non fare è non regolare l'altezza della sella in base al fatto se tocchiamo per terra o no, perché spesso quello dipende dal tipo di telaio che abbiamo. Se abbiamo un telaio alto... Io ho sempre sbagliato tutto. Tocco, allora è la mia. Invece no. Occhio al punto morto. Grazie a Simone Diamantini, preparatore atletico della squadra nazionale di sci di fondo e allenatore di triathlon. Andiamo ad Andrea che ci chiama da Fermo. Buongiorno Andrea. Posso fare un'osservazione? Sì, stia lì Andrea, perché il nostro professor Danchise vuole intervenire. L'ultima chiacchierata è importante, perché noi dobbiamo lanciare il messaggio che qualsiasi attività fisica noi facciamo deve essere fatta bene. Quindi se noi facciamo bene il gesto atletico, i rischi di avere delle problematiche si riducono praticamente a zero. Quindi qualsiasi attività fisica impariamo a farla e poi la facciamo. Ecco, Andrea, lei fa un po' di attività fisica o no? Ma pochettino sì, non molto. Andrea, allora, la sua domanda. Sì, effettivamente io telefonavo per mia figlia. Sì. Che lei, siccome a causa di un dolore sempre al ginocchio, abbiamo fatto una risonanza e hanno scoperto che c'aveva questa malattia di Slater. Quanti anni ha sua figlia? 20 anni. 20 anni, giovane, malattia di Slater. Non ce l'ha più. Non ce l'ha più. Lei ha fatto un po' di sport a livello agonistico, un po' di pallacanestro. Allora sentiamo il professor Danchise. La malattia di Osgood Slater, che è un dolore dove si attacca il tendine rotuleo qui davanti sulla tibia, se voi mettete un dito sentite una sporgenza, è una zona in cui in fase di crescita, quindi probabilmente sua figlia ha avuto questo tipo di malattia, che è in questa zona di accrescimento dove si attacca il tendine, che si è risolta, perché al termine dell'accrescimento si risolve. Può darsi in alcuni casi che rimangano dei postumi dati da una sporgenza eccessiva o da una sofferenza del tendine in relazione alla patologia che ha avuta, però questi sono gli esiti, non è questa, la malattia è finita e guarisce da sola? Si ha di solito verso gli 11, 12, 13 anni in fase di sviluppo, specialmente se c'è uno sviluppo eccessivo, perché i tendini fanno un po' fatica a seguire, questa è la mia idea, a seguire la crescita delle ossa, e quindi possono crescono creare, un po' dopo possono avere problemi. Ma il messaggio assolutamente tranquillizzante. Mi rivolgo alle mamme che hanno ragazzini, no, ecco, o ragazzine, esatto, che si lamentano, c'è di dolori. C'è questo piccolo rischio di un residuo di dolore negli anni, però è veramente raro, di solito si risolve. Il problema è che non si sa in quanto tempo si risolve, e tante volte questi ragazzi che giocano a calcio sono disperati perché devono smettere, perché ecco, l'unica terapia è il riposo in relazione al dolore. Roberta ci chiama da Novara, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione naturalmente. Grazie. Dunque, io ho la Flavia, mia figlia, che attualmente ha il ginocchio, che le due ginocchia che le pungono. Ho sentito il professore, ho visto le scarpe e ha effettivamente il tallone, la parte esterna consumata. Ecco, questo diciamo un anno fa aveva avuto un dolore più acuto alle ginocchia, l'avevo portato dall'osteopata, il quale aveva capito che le ginocchia col movimento diciamo vanno verso l'esterno, e gliel'aveva con due o tre trattamenti, con l'uso di quei cerotti colorati, sì, le aveva praticamente impedito per un certo periodo, gli aveva dato una tempistica, 3-4 giorni, gli aveva un po' corretto la posizione. Sì. Ecco, allora, signora, Roberta, io credo, mi sembra che il professor D'Anchisa, sì, abbia già capito. Ha già risposto il dottor Respizzi, nel senso che probabilmente sua figlia ha il ginocchio valgo, cioè il ginocchio a X, e questo comporta un'usura alterata delle suole. Purtroppo non c'è niente da fare. Se la deformazione è molto importante, si fanno anche degli interventi per correggere questa deformità, perché, osservazione corretta che dobbiamo fare, se noi abbiamo un cattivo asse del nostro ginocchio, ovviamente tende a consumare più una parte rispetto all'altra del ginocchio, e nel tempo si può avere un'artrosi. Attenzione, ci siamo occupati di mantenere il nostro ginocchio agile e scattante, ma voi sapete che anche l'occhio vuole la sua parte. Le ginocchia si appesantiscono, l'adipe si deposita proprio nella parte interna, difficile mandarlo via, e poi tono che si perde e rughette. In linea con noi il professor Antonino Di Pietro, direttore del servizio di dermatologia all'ospedale di Inzago. Professore, buongiorno. Buongiorno. Lei lo sa che starei ora a parlare di ginocchia, che sono un po' il punto debole della bellezza delle gambe, perché con gli anni insomma si rovinano un po'. Io voglio sapere da lei tutto. Glielo dico in due minuti, vada! Allora, cominciamo subito con la cosa più frequente: la pelle quando è un po' ruvida. Questo può verificarsi, frequentemente è associato a una malattia che è la psoriasi, ma molte volte è anche costituzionale, esserci un po' di indurimento della parte più superficiale della cute. Allora qui delle creme con acido salicilico al 5-8% che può preparare il farmacista senza problemi e che renderanno la pelle più liscia, più uniforme, e quindi questo è il primo consiglio. Almeno sono lisce. Certo, poi c'è il rilassamento. Sul rilassamento qui deve intervenire il dermatologo, anzi il dermatologo plastico, perché abbiamo visto negli ultimi anni che l'acido ialuronico naturale, quello che viene messo anche sul viso per migliorare l'elasticità, il turgore della pelle, sì, del viso, può dare dei risultati estremamente interessanti nel migliorare l'elasticità e il turgore della pelle di quella zona, intorno al ginocchio. Per ultimo anche la radiofrequenza, è una terapia molto soft, che dà turgore ai tessuti profondi perché agisce sul connettivo, quindi sulla struttura di sostegno della pelle, del derma, e i risultati direi che sono interessanti in questo caso. Per cui con poche attenzioni, ecco, in maniera non invasiva, direi che ginocchia da star, qualche risultato. Grazie professor Di Pietro, è stato bravissimo. I tempi erano strettissimi, spero di esserci riuscito. Complimenti per la trasmissione, che è estremamente interessante. Grazie professore. Il professor D'Anchisa ha ancora un secondo. Sì, sì, perché secondo, il professor, attenzione, Di Pietro è stato perfettissimo. Bravissimo. Nessun problema funzionale da un aspetto estetico. Se non il peso eccessivo ovviamente può creare un sovraccarico, ma nessun problema se il nostro ginocchio non è bello. Bello. Pazienza. Noi ci sentiamo domani, buona giornata, buone ginocchia, state seduti ma ogni tanto muovetevi un po'. Grazie, a domani.